Ad alta voce, edizione 20 anni. Giovanni Ludeno legge Acido lattico di Saverio Fattori. 8ª puntata. Mail from Claudio Seregni to Arlati Clara. È incredibile, Clara. Dormito 3 ore, 3, e sono in forma strepitosa. Insomma, non è solo una questione fisica. Che senso hanno poi queste compartimentazioni? Il cervello non fa parte del fisico. O vogliamo sbranarci sul concetto di anima? Tu ami la poesia, sei più adatta ad affrontare certi argomenti. Vabbè, lascio perdere. I chilometri stamattina sono stati i soliti 17, ma vogliamo parlare dei minuti? 55, Clara, rispetto ai soliti 60, 62. Le gambe hanno ricominciato a girare. Cristo, se girano. Gamba piena. Tu puoi capire cosa intendo. Ti ricordi, Clara? Spero di non riaprire ferite. Vorrei solo che tu corressi attraverso me, che i miei progressi li sentissi come i tuoi. È una specie di gioco. Vabbè. Dopo la doccia ero nervoso. Una specie... Insomma, non trovo un termine più adatto. Il nervosismo blocca, si fa panico, non serve a nulla. Io invece ero lucido. Ma è come se il mondo andasse a velocità ridotta rispetto al nuovo ritmo del mio metabolismo. Ecco, non ero nervoso, impaziente direi, curioso del futuro che va troppo lento. Non vedo l'ora di gareggiare. L'allenamento del pomeriggio è stato un delirio. Fantastico. Volavo. Ti risparmio i dettagli cronometrici. Cherono alla fine mi ha abbracciato. Il suo sorriso bianco riempiva la pista, arrivava fino alle fabbriche dietro agli alberi. Anche i ragazzini che stavano facendo preatletici si sono fermati. Avevano capito che dall'altra parte era successo qualcosa di importante, che non era una pubblicità di Benetton. Roberto si è unito a quell'abbraccio. Poi ci ha ordinato di fare 20 minuti di defaticamento e di andare subito in doccia. Ammalarsi oggi è da suicidio. Basta una piccola influenza, un paio di giorni a 38 di febbre per mandare a puttane tutto, per disintegrare la cristalleria, per rompere l'incantesimo. Non prendo mezzi pubblici, non frequento locali affollati. Cerco di preservarmi da virus e batteri, di mantenere il controllo su tutte le variabili potenzialmente pericolose. Ho iniziato una dieta che privilegia le proteine. Sto perdendo peso senza perdere massa magra. Mi sto allenando e basta. Da 32 giorni non gareggio. Non abbiamo ancora programmato la stagione agonistica. So che faremo solo gare in pista. L'esordio sarà un 5.000 metri. Anche la società mi sta lasciando tranquillo. I 3.000 siepi dei societari li farà un ragazzo pugliese che si è appena stabilito a Milano. Devo lavorare molto ed evitare infortuni. Un atterraggio sbagliato dopo un ostacolo sarebbe imperdonabile. Adesso puoi capire meglio quando parlo di impazienza. Sono un leone in gabbia, ma irrequieto come una scimmietta. Roberto avrà le sue ragioni, ma io sto scoppiando. Giulio non mette parola. Dice che almeno questo non lo riguarda. Non lo vedo da una decina di giorni. Le sue provviste stanno finendo, ma mi sono arrangiato. Mi fido sempre meno di Giulio. Insomma, non so. Pare davvero un tipo tosto, ma mi rende inquieto. Basta parlare di me. Scusa l'egocentrismo, noi atleti siamo così. Egoisti, chiusi in noi stessi, tesi verso una perfezione, al primo problema vero sprofondiamo, attenti solo a una punta di dolore che si innesca su qualche tendine, piuttosto insensibili verso le vere tragedie. Adesso parlami di te. Sono forte, non voglio fare il tragico, ma le tue mail mi mancano. Un abbraccio, C.S. Sabato 12 febbraio i tre quotidiani sportivi nazionali danno un timido risalto a una non negatività al norandrosterone, riscontrata in un controllo ematico a sorpresa su un mezzofondista italiano, Matteoli Riccardo. I test erano stati effettuati 3 mesi prima in un challenge europeo di corsa campestre. A darne conto è la federazione per mezzo del suo stesso ufficio stampa. Matteoli si era piazzato al 49esimo posto, quarto della squadra azzurra, a 2:50 dal vincitore, un magrebino col passaporto belga. Un trafiletto di 4 righe in 13esima pagina su 10 nel quotidiano A, rubrica Sport Vari. Salgono a 13 righe in 5ª pagina su 16 nel quotidiano B. La testata è la più attenta agli sport minori. Sponsorizza il secondo giro a tappe ciclistico per importanza. Il quotidiano C si limita all'informativa battuta dall'agenzia ANSA, che riprende e sintetizza il comunicato della Federazione Italiana di Atletica Leggera. 3 righe alla penultima pagina. Nei giorni seguenti il quotidiano B dà conto degli sviluppi della vicenda. L'atleta si dichiara innocente e pronto a presentare alla Commissione federale un elenco di integratori di cui fa uso. Si tratta di prodotti acquistabili in farmacia anche senza ricetta medica. Non sa nemmeno cos'è esattamente il nandrolone, che almeno risulta pronunciabile, perché la bocca si rifiuta di contorcersi fino a emettere norandrosterone. Il medico sportivo che lo segue non riesce a darsi pace. Si limita a leggere ad alta voce una lista di prodotti farmaceutici, composti di amminoacidi ramificati per il recupero muscolare e ferro, per mantenere alti livelli di sideremia. La conferenza stampa in un albergo della capitale non è certo affollata. Ai giornalisti assonnati le penne cadono dalle mani. Si limitano a digitare le tastiere dei telefonini e registratori, insensibili alla piccola tragedia dell'atleta e del suo staff. La sua fama non va oltre gli amanti di questo sport. L'eventuale squalifica toccherà 20 di persone in tutto il globo. Faccio parte di questo manipolo di persone anche se Matteoli non lo conosco personalmente. Una carriera discreta è più vecchio di me, la mia crescita in collisione con il suo declino. Se non lo sospendono alla prossima gara non lo supero al lato, gli passo sopra, lo rullo. Ho preso il primo Eurostar per Roma che ancora la notte faticava a sbiancarsi. Lo scompartimento brulicava di microbi patogeni. Una coppia di turisti tedeschi ha consumato il proprio pranzo made in McDonald's accanto al mio posto. Il fetore mi ha aggredito le narici, ho trattenuto il vomito. La domanda perché si diventa serial killer è mal posta. La domanda intellettualmente onesta è perché non si diventa serial killer. Sono arrivato alla conferenza stampa con un leggero ritardo. Quando Giulio mi ha visto è sembrato turbato, poi si è sciolto in un sorriso da figlio di puttana. Ha mulinato l'indice in orizzontale sopra le teste e mi ha fatto capire che dopo ci saremmo parlati. Era seduto in prima fila tra 2 ex atleti che insieme facevano 6 medaglie, tra campionati mondiali ed europei e 2 vittorie alla New York. Alla fine è stato il primo ad abbracciare Matteoli. Poche parole di conforto sussurrate e si è diretto verso di me. Non è sembrato per nulla sorpreso della mia presenza, nessuna domanda sui miei allenamenti. Brutta storia. Non necessariamente. In che senso? Beh, me lo avevi detto tu che ero un atleta vecchio per la federazione. Appunto, si sputtano tutto ciò che di buono ha fatto in carriera. Questi delinquenti di americani mettono un nandrolone nei multivitaminici. Ha una depressione che lo spacca. Non ha parlato per 1 settimana. Adesso ha problemi con la fidanzata, la famiglia lo fa sorvegliare da un detective privato. È davvero distrutto, temono il peggio. E scommetto che il suo medico sportivo non sapeva che il prodotto era inquinato. Senti, se sei venuto a rompere i coglioni, è un momento molto delicato per tutti. Ah, piuttosto, chi ti ha insegnato a dire non necessariamente? Sei geloso? No, sono felice. In realtà in questo periodo non riuscirei a seguirti. Sto girando l'Italia in lungo e largo e lo stregone si sta riabilitando. Lavora piuttosto bene. E se il suo studio è frequentato da un sacco di atleti amatori, a noi non frega nulla. Tutta sperimentazione in più. Solo non venire a farmi domande del cazzo su medici sportivi che consigliano farmaci inquinati per fottere bravi ragazzi. Un test a sorpresa può capitare a tutti. È una minaccia? Tu adesso prendi il primo treno che va fino a Milano, dai un bacetto a Sara, dormi le tue 9 ore come i bimbi buoni e mi lasci lavorare, va bene? Il capannello di persone al centro della sala reclama la sua presenza. Un paio di personaggi mi ha riconosciuto senza salutarmi. Non sono tra le priorità di questa giornata. Come ho potuto pensare di essere targato Pechino 2008? Al ritorno ho trovato solo un Intercity che sferraglia inchinandosi a ogni fottuta cittadina. Lo scompartimento è pieno di extracomunitari senza scarpe e di militari in licenza. Ho smesso di pensare a virus e batteri che devono essere grossi come noci. La notte ho dormito poche ore, disturbato da immagini confuse, una precisa. Matteoli appeso ad una corda, faccia livida e gonfia. Gli investigatori privati non riescono a evitare il suicidio. Il dondolio del corpo e la lieve torsione ne deformano i tratti. A guardarlo bene poteva assomigliare anche a Roberto, o forse a me. Nell'incubo mi avvicino al suo viso e cerco di decifrare l'identità salendo su una sedia identica a quella che ha usato l'impiccato. In me non c'è orrore, pena o disperazione, solo curiosità. Voglio essere certo che sia davvero Matteoli, a pendere dal soffitto. Ora i lineamenti sono chiari. È Clara a pendere dal soffitto. Sara da qualche notte dorme in un'altra stanza. Dice che scalcio come un cavallo e che mormoro parole incomprensibili. In 5 giorni non ho dormito 20 ore. Non facciamo l'amore da 22 giorni, 12 ore e qualche minuto. Numeri. Numeri e basta. Ho acceso il PC e mi sono connesso alla rete. Nessuna mail in arrivo. È facile trovare forum dedicati al doping. Purtroppo sono frequentati da bodybuilder, quanto di peggio. Per lo più tendono a relegare la questione a sane battaglie salutiste contro gli anabolizzanti. Ciubecca. Mangiare, dormire, allenarmi a orari prestabiliti. E questa è la mia ricetta. Ogni giorno è identico al precedente. 6 pasti, 2 sessioni di allenamento, aerobica, 8-10 ore di sonno e sono a posto. È la mia tabella di marcia 365 giorni all'anno. Non tutti ci riescono, né lo consiglierei a tutti. Ma io vivo così e direi che funziona. Obo. Allenarsi, lavorare, fare parte di una famiglia, lottare ogni giorno con ernie, periatriti, cervicale, capitello pazzo e cazzi vari. Lottare e vincere sempre anche quando non vinci. Stamattina mi sono alzato e ancora tutto dolorante ho mangiato la mia banana. Oggi ritornerò nell'arena e poi non saprò se potrò ancora tornarci, ma mia moglie ha comprato altre banane. Intorno a me loro, gli anabolizzanti, e si mettono in guardia a vicenda. Epistrofeo. Gli effetti degli ormoni anabolizzanti sono riconducibili a 4 principali controindicazioni. Blocco degli effetti catabolici dei glucocorticoidi, positivizzazione del bilancio azotato, stimolo della sintesi proteica nel muscolo, aumento della resistenza e aggressività nell'allenamento. Gli effetti dell'abuso di tali prodotti sono dati dal sovraddosaggio e dalle impurità in esso contenuti. Le più importanti conseguenze mediche del loro abuso sono espressioni dei loro effetti endocrini. Nelle donne compaiono acne, abbassamento del tono della voce, irsutismo, atrofia mammaria, calvizie di tipo maschile, ipertrofia del clitoride, amenorrea. Nell'uomo si ha abbassamento del testosterone endogeno circolante, atrofia testicolare. Inoltre, per entrambi i sessi si ha aumento di rischi tromboembolici, blocco dell'asse ipotalamo-ipofisi-gonadi, neoplasie epatiche. Effetti psichiatrici dell'abuso degli ormoni anabolizzanti comportano alterazioni dell'umore, aggressività, disinibizione e una sindrome paragonabile all'astinenza. Spero di essere stato chiaro. Eritropoietina? No, grazie. Aumenta la massa eritrocitaria, quindi l'ematocrito, diciamo la densità del sangue. i capillari si intasano, rischi infarto del miocardio e ictus. L'aumento del numero di globuli rossi è peggiore a lungo andare rispetto all'effetto sul miglior apporto di ossigeno, che per intasamento dei vasi viene quindi a mancare. Insomma, meglio vivere. È impossibile trovare atleti di sport normali. Per registrarmi ho dovuto fingermi praticante di powerlifting. Gare di alzate massimali applicate ai 3 esercizi fondamentali dei frequentatori di palestre. Squat, stacchi da terra, distensione su panca. Mi sono firmato pallido squatter e ho messo a conoscenza i frequentatori del forum delle mie difficoltà nel prendere sonno e delle sostanze assunte, precisando che nonostante le poche ore di recupero le prestazioni rimangono alte. Ho sostituito i tempi cronometrici con i chili sollevati. L'importante era rimarcare l'efficienza fisica. Ho sparato 150 kg di panca orizzontale per un peso corporeo di 78 kg al 5% di grasso. Ed è esplosa l'intolleranza dei bodybuilder natural. E certo che non devi dormire. Devi saltare per aria nella notte con gli occhi crepati e il cuore che ti scoppia in petto. Fate schifo. Siete peggio degli eroinomani, molto peggio. Io faccio sport a livelli medi, niente soldi, niente medaglie olimpiche, ma almeno la presunzione di essere sano, integro, rispetto ai miei colleghi di ufficio con le loro pancette molli, le loro battaglie misere per tenere domato il colesterolo. Ho pietà di loro quando li vedo camminare la sera con giubbotti catari frangenti simili a quelli usati dagli operai delle autostrade. Viaggiano in gruppo, starnazzano di diete e di nuovi ristoranti, ma le merde come voi covano cancheri meritati per un delirio di potenza, un edonismo senza speranza. Crepate! Il moderatore ha chiesto di limitare i toni ad un confronto sereno tra le diverse filosofie o sarà costretto a chiudere il forum. Sono stato io stesso a rispondere, registrandomi con un altro username. Ho innescato un dibattito di demenza ipertrofica infestato da errori di grammatica e uso criminale della punteggiatura. Giovanni Ludeno ha letto Acido Lattico di Saverio Fattori, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.